Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Ma voi immaginate adesso con l'intreccio europeo, nazionali, Champions, Europa League, voli, trasferte, contaminazioni, non è gestibile. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La vera vittoria di tutti è finire il campionato e riuscire a farlo completamente. E il risultato sportivo, con tutto il rispetto, è secondario e si comincerà a parlare di campionato falsato, ma la verità è che bisogna mettere già da parte questa cosa che è falsato, perché sarà così sicuramente. Cioè, bisogna prepararci ad un campionato dove ci saranno dei periodi di difficoltà, come a volte capita per gli infortuni e ora capiterà anche per il Covid. Bolla è difficile perché il campo da calcio, le strutture che richiede una squadra di calcio sono molto diverse, non abbiamo neanche già strutture pronte come magari c'è stata in America. Una semibolla alla fine è quella che già più o meno si sta facendo nei casi di positività. Faremo scuola avanti e indietro fra ritiro e casa. Poi se bisognerà star chiusi e quanto, c'è massima disponibilità nel rispetto, insomma, della razionalità. Cristiano sta bene, era sereno, stava prendendo il sole, quindi no, quando si rimetterà tornerà. Tutti a lezione dal professor Chiellini, che avete sentito in questa copertina, al di là di Cristiano Ronaldo che prende il sole, condivisibili le altre due battute che ha fatto. Non so come la pensate voi, ve lo chiedo. 800 24 00 24, il numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. E poi Radio Twitter, Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, che è dedicato a Gianfranco De Laurenti. Bravissimo. Che, come probabilmente saprete, ci ha lasciato. E insomma, per la mia generazione, io ho 46 anni, ma non credo soltanto per la mia, era veramente un punto di riferimento. Lui e Giorgio Martino, dribbling, Eurogol, veramente il calcio internazionale che in quei tempi si vedeva rarissimamente, no? C'è anche, se vuoi, un discorso sulla quantità di calcio visto, sull'abbondanza. In quegli anni lì, vedere l'immagine di una partita di campionato inglese o di Coppa delle Coppe, magari con le immagini sgranate, aveva un fascino e una libidine incredibile. E lui interpretava questa libidine, che è il nostro lavoro, il nostro gioco, la possibilità di poterlo raccontare, secondo me, in maniera fantastica. Uno dei miei preferiti, per quel nulla. Sì, con una misura incredibile. Grandissima eleganza. Senza dover urlare, senza dover rinveire contro gli altri, con una misura, appunto, con un rispetto e anche con una leggerezza, perché poi la leggerezza è parte del... No, grazie a Dio non raccontiamo questioni di vita o di morte, quindi d'accordo non prendersi sul serio, ma nemmeno, appunto, farsi prendere dalla foga, dal panico, dall'astio. Ecco, lui da questo punto di vista, io non l'ho conosciuto personalmente, l'ho visto sempre soltanto da telespettatore, mi sembrava veramente fantastico, per cui condoglianze alla famiglia, ovviamente a tutti quelli che ci hanno lavorato. Ho letto alcuni tweet, Fanella Clerici, ovviamente tutto il mondo Rai, mm-hmm, e di Rai Sport, immagino che sia particolarmente, Antinelli sia particolarmente legato, e ci mancherebbe altro. Credo che Filippo Maria Ricci si unisca a noi, data anche per questioni anagrafiche, no? Ciao Phil. Mi sa che... Buon pomeriggio, sì, perfettamente. Insomma, ecco, io, diciamo, sono cresciuto prima col 90° minuto, e poi, ecco, un attimo dopo è arrivato. Lui era a un certo punto il calcio internazionale, no? Quando c'era, esatto, il calcio internazionale era Gianfranco De Laurentiis. Adesso siete voi, ragazzi. Lui è Giorgio Martino, certo. queste repliche, queste partite anche abbastanza fonda, oscure per i tempi, perché adesso siamo abituati a vedere tutto, ma al tempo non si vedevano tante cose, per cui era veramente di nicchia, erano cose particolari. Il calcio internazionale non è come adesso, che insomma ce l'abbiamo, qualsiasi ragazzo che cresce adesso insomma cresce anche con la Premier League, la Liga, la Bundesliga, tutto quello che vuole. Al tempo no, erano veramente delle finestre molto particolari, sì, spesso sì, notturne, molto notturne. Bravo, esatto. L'Inghilterra quei palloni bianchi, no? Mentre noi si usava quello bianco. Vabbè, siamo una banda di vecchi rincoglioniti comunque, questo è chiaro. Che è bellissimo questo discorso. E allora, per esempio, una cosa banale che in realtà abbiamo però da 15-20 anni è il fatto che siamo ormai abituati a vedere, quindi tu pensa ai ragazzi di oggi, siamo abituati a vedere qualsiasi immagine da qualsiasi parte del mondo con lo stesso livello di nitidezza, che è una cosa che fino a 20 anni fa non c'era. Cioè fino a 20 anni fa tu potevi anche collegarti con l'Argentina, bianco e nero spesso arrivava ancora, no, beh, 40 anni fa è bianco e nero, ma voglio dire anche 15-20 anni fa comunque un collegamento dall'altra parte del mondo, insomma il livello dell'immagine non era lo stesso, se non per grandissime produzioni, c'erano le immagini con gli sganci dei telegiornali. E te ne accorgi ovviamente quando rivedi qualche immagine dell'epoca. Comunque insomma, a me la cosa secondo me più interessante è più utile per tornare ai tempi moderni era l'esempio, cioè un racconto che era leggero, perché la leggerezza è un elemento fondante di questo mestiere, ma al tempo stesso tranquillo. Non ho mai visto De Laurentiis competente anche, in una polemica, non lo so, non mi è mai capitato di vederlo coinvolto in una polemica, mai criticare qualcuno, qualche collega. Ecco, quindi da questo punto di vista è un esempio a goderci il lavoro col massimo della professionalità possibile, ma anche con, non voglio dire il giusto distacco, ma con il piacere di una cosa bella, ma che non deve diventare questione di vita o di morte. Certo, intanto adesso ci siete voi che avete, tu Pierluigi, raccontato il 3-3 tra Germania e Svizzera, e Filippo che ha scritto di una Spagna battuta dall'Ucraina di Shevchenko. Il comune denominatore è che sono che i frutti dell'autunno più strano sono risultati curiosi, quantomeno, no Phil? Sì, sicuramente. Io appunto poi, adesso a proposito di facilità, no, di fruizione, diciamo del calcio internazionale, io ieri sera ho visto anche in parte in Germania e Svizzera, perché sul sito della UEFA si possono vedere le partite, insomma basta registrarsi con una mail, quindi insomma, ecco, siamo per un paradosso rispetto a quello che era prima, insomma adesso di facilità di contenuti. Sì, io l'ho aperto così, due risultati curiosi, soprattutto quello della Spagna, perché vanno dati grandissimi meriti all'Ucraina di Shevchenko e Tassotti, no? Per cui è stata fatta grande fantasia sul rincontro di Tassotti e Luis Enrique dopo la comitata USA 94, però è una squadra piena di assenti. Che è riuscita a fare una, io l'avevo già vista contro la Germania, ha fatto comunque la sua signora partita e si è portata a casa un risultato che a un certo punto poteva anche prendere 2-3 gol l'Ucraina, e si è difesa bene e poi con grande orgoglio ha portato a casa un risultato importantissimo. Ricordiamo che adesso la Spagna è davanti a Germania e Ucraina di un solo punto, ci sarà Germania e Ucraina e poi Spagna e Germania, e insomma ecco, in questo momento strano del calcio arrivano anche questi risultati. La partita poi Germania e Svizzera è stata bellissima, insomma, molto, molto emozionante. Pier te lo può dire, insomma. Fra l'altro è andata anche molto bene dal punto di vista degli ascolti. Tengo a precisare che, per chi non lo sapesse, non c'è nessun merito mai da parte dei telecronisti, anzi, nel caso possono soltanto mandare, questo perché magari qualcuno pensa, però invece insomma, su un canale che non è né Canale 5 né Italia 1 né Rete 4 ha fatto quasi 600.000 spettatori. Beh, merito completamente della partita che, come tutte le partite della mia vita, approcciavo con grande entusiasmo, ma che è stata realmente elettrizzante, no, sorprendente. Sì, no, ma comunque c'è molta discussione, c'è molto dibattito. Chiedere al signor Wenger su questa Nations League e perché farla, Wenger dice, torneo inutile. Io continuo a pensare che il valore di un torneo lo scriva la storia. Tra 20-30 anni magari anche la Nations League sarà importante. E poi devi considerare le alternative potevano sono essere amichevoli, inutili. Poi attenzione, lo so benissimo che c'è il Covid, perché immagino la gente che già sta scrivendo. È ovvio che in questo momento qualsiasi rischio, insomma, abbiamo visto che una delle principali forme di contagio è il fatto di mischiare il gruppo squadra di club con quello delle nazionali. Esatto. Per cui i contagi probabilmente manca la controprova, ma si sono sviluppati proprio in questa, in questo tipo di discorso. Penso a Diawara, forse allo stesso Cristiano Ronaldo. Quindi, quindi al netto di tutte le considerazioni sul Covid e cercando di ragionare in termini normali, secondo me la Nations League è una competizione carina, soprattutto dà la possibilità, invece di noiose amichevoli, esatto, di partite con squadre, esatto, completamente squilibrate, esatto, di vedere partite fra squadre dello stesso livello, dove poi alla fine c'è anche un premio che oggi onestamente conta poco, ma che, come dice giustamente Carlo, magari fra 20 anni o 30 anni sarà una coppa che... sarà una coppa che avrà una storia. Sì, ci sarà l'albero d'oro. Ma non si discute, dai. Cioè, no, no, ma anche perché abbiamo visto Italia-Moldova, che vabbè, potevamo anche non vederla volentieri. Poi Polonia-Italia e questa sera Italia-Olanda sono partite, sono partite comunque interessanti. Al netto di tutto questo, ragazzi, sarebbe insensato però se a questo punto l'UEFA continuasse a permettere in autunno, ad esempio a metà novembre, prossima sosta, sarebbe insensato che l'UEFA pretendesse la normale vita delle nazionali. In questo momento è impossibile, non c'è Nations League che tenga, queste partite rischiano di avere degli effetti inaccettabili, secondo me. Non so come la pensate voi, Filippo. Allora, non c'è solo la Nations League, ci sono anche le qualificazioni sudamericane, ci sono le amichevoli delle squadre africane che in novembre faranno invece partite competitive, cioè qui è tutto il mondo che gioca. Sì. Allora adesso qui si entra in un discorso molto molto complicato, perché è chiaro che viaggiare, spostarsi, mischiarsi, esatto, questo comporta dei pericoli che non possiamo quantificare. Magari ti va bene, magari no. Io ieri ho fatto, quando no, è uscita la notizia di Ronaldo, no? E io anche ho detto, guarda, siccome seguo sempre le mie cose africane, è venuto fuori che la nazionale della Mauritania c'aveva 8 contagiati. Ecco, che non, alla fine magari, ovviamente non fa notizia, però il problema è proprio questo, che ci si mischia, che si viaggia, si arriva da realtà, esatto, diverse, chi, esatto, più protette, chi meno. E in questo momento, adesso poi vediamo, cioè secondo me ancora... Per dire, i sudamericani devono ancora tutti tornare. Vediamo come va a finire, faremo la conta dopo, no? Perché purtroppo questo. Cioè in non questo è, momento no, io credo che non ce lo possiamo permettere, no? Io sono per la normale vita sportiva. Però, Carlo, io non voglio dire. Io sono d'accordo con Filippo. Cioè, secondo me, sì, non ce lo possiamo permettere, certo, tutto ciò che minimizza il rischio, però allora non ci possiamo neanche permettere di andare a fare l'Europa League o la Champions League, cioè mi sembra che è tutto talmente più grande di noi che o fai una completa ristrutturazione della stagione, per cui tu lo stabilisci, però è una cosa drastica, che fai in 2 settimane i gironi di Champions League e di Europa League in campo neutro, faccio per dirti, con le squadre che sono in 8 bolle e giocano, allora quello, poi no, fai un mese estremo e mezzo di campionato cercando di limitare i giorni fra una partita e l'altra, fra l'altro limitare i giorni fra una partita e l'altra dal punto di vista, diciamo, medico non è il massimo della vita, no? Cioè, giustamente tante volte abbiamo detto che il calendario è troppo intasato, qui in realtà il calendario normale, quello più diluito, è quello che aumenta il rischio Covid, perché il Covid appunto lo puoi prendere da lattaio, lo vuoi prendere da tuo figlio che torna da scuola, questo, cioè, certo, lo puoi prendere... questo quindi... certo. Però Pier, in questo momento, se tu guardi al calendario sportivo, la prima cosa che vorresti rimodulare sono proprio gli impegni delle nazionali, no? Sì, ma non risolve, secondo me, sì, esatto. Lo dico sinceramente, il discorso è anche un 10% dei contagi, per carità, meglio di niente, però allora non lo so. Cioè, mi sembra, non so, che io... poi comunque in Sud America giocano. Che fai, togli pure le qualificazioni? Non lo so, boh. Io vi parlo da una città che è confinata, per dire. Cioè, io sono a Madrid e io da Madrid non posso uscire. Allora, cioè, per quello che diceva Pier prima, è una cosa più grande di noi. Cioè, il problema è come inserire il calcio in tutto questo. Perché è lo stesso, cioè, non so, qua per ora con i contagi è andata abbastanza bene, però guardate nel basket, l'Euroliga, le 2 squadre russe, una, esatto, qui non è venuta, lo Zenit, il Khimki sono venuti in 8. Sì, e ci sono 2 partite allora, che non, Vittoria Zenit non si disputa, 20-0 però, a tavolino lì per il Vittoria. Però Carlo, E il Biberman non gioca. Anche il le partite in Russia erano col pubblico. Stamattina, adesso io ho appena letto che per Real Sociedad Napoli si prevede l'apertura dello stadio 1000 persone. Allora, cioè, capito che andiamo in varie direzioni. Cioè, la UEFA aveva detto che voleva il 30% della capienza degli stadi per la Champions. Però poi dopo diciamo no, le nazionali non devono giocare. Cioè, è molto complicato. Cioè, io non sono in grado di fornire una ricetta o di... per me il problema non so, cioè le nazionali possono essere parte del problema, ma è la situazione molto più borderline, onestamente, per i motivi che dicevi tu prima. Le nazionali possono essere un problema soltanto per un discorso che è quello del mischiare i gruppi squadra. Però perché questo ragionamento abbia un senso, devi fare una bolla, perché tu il gruppo squadra lo mischi ogni giorno, ripeto, continuamente, con tuo figlio che torna dalla scuola o con l'idraulico che ti viene a sistemare una tuba. Cioè, è continuamente, nella vita che stiamo conducendo, il gruppo squadra si mischia ogni giorno legittimamente con delle persone, perché con la cassiera del supermercato, nessuno può fare una vita completamente isolata. Puoi stare con un congiunto o con due congiunti, ma questi congiunti non è che possono vivere dentro una bolla come te. Quindi quella situazione che si è creata per esempio a Orlando in NBA nello sport europeo in questo momento non è praticabile. Sono d'accordo. Ci sono gli alberghi, ci sono gli aerei, ci sono i treni, cioè è veramente impensabile. Poi certo, uno può anche dire quello che non è proprio del tutto indispensabile, togliamolo. Le amichevoli delle nazionali a noi sembrano certamente non indispensabili, ma magari a Mancini gli ha fatto piacere avere un'occasione in più, visto che ne ha poche per provare i suoi. Ma la mia sensazione è che poi il prezzo da pagare sia davvero molto elevato e sia la situazione più rischiosa, più borderline, questa appunto per tutte queste ragioni. Sì, però il problema sono gli autobus, cioè, non so come dirti. Non voglio fare adesso del populismo. La metropolitana qui a Madrid. La metropolitana. Non so dirti, se per carità. Le scuole, perché no, ma i problemi sono altri. Siamo tutti d'accordo. Stiamo parlando, cioè, secondo me, rimaniamo sul fronte Orlando, sportivo, naturalmente. Orlando, e se vuoi anche i campionati, vari campionati europei di club nel periodo post lockdown, sono la dimostrazione che probabilmente, e dico probabilmente, anche perché hanno i soldi per fare la guerra, come si dice a Roma, quindi la possibilità di fare continuamente controlli, tamponi, sanificazioni, eccetera, eccetera, il mondo degli sportivi professionisti è quello più sicuro di tutti, perché è quello più controllato. Però è chiaro che se tu poi inserisci il calendario all'interno di una vita normale, non puoi pensare che gli atleti professionisti siano 9 mesi dentro una bolla a casa. No, ma non è accettabile da molti punti di vista. Volevo chiedere una cosa a Filippo, proprio per il quadro che hai dipinto tu prima, dove sei a Madrid, che non ti puoi muovere di lì. Qual è il livello della polemica in Spagna in questo momento? Cioè, perché qui si fa un gran casino, come sai, si fa un gran casino, no? E sospendiamo campionato e fermiamo campionato e fermiamo tutto. A me sembra che da altrove, dagli altri paesi, queste voci non arrivino. No, esatto. Allora, qua c'è una polemica mostruosa a livello politico e nazionale sul paese e sulla gestione del coronavirus a livello di paese. Però questo, diciamo, non è tema da tutti i convocati. Per quello che riguarda lo sport, invece, la polemica è molto molto limitata. Anche questi casi del basket sono stati gestiti in maniera, come si può dire, molto molto secca, no? Molto, molto neutrale. C'è un problema, questa squadra viaggia, questa squadra non viaggia, però ci si limita alla fredda cronaca. Per ora il campionato spagnolo sopravvive bene, non ci sono stati casi, diciamo, clamorosi, ci sono vari contagiati, però ecco, è chiaro che quello che è successo in Napoli-Juve qui non è ancora successo, ovviamente quello sposta un po' tutto il piano della discussione. Cioè, non abbiamo avuto un caso del genere. Una squadra come il Genoa, che secondo me è la vera anomalia italiana, purtroppo. Esatto. Cioè, di una squadra che è stata contagiata in una misura così abbondante da avere una conseguenza forte e il rischio di aver infettato poi la squadra successiva. Che una cosa però devo aggiungere, Perché qui c'è stato il caso Fuenlabrada, però diciamo partiamo già, diciamo è precedente la partita tra Fuenlabrada e Deportivo, che era decisiva per, diciamo, di, intanto era di seconda, quindi diciamo di Serie B, però è stata, a quella ha creato, perché lì il Fuenlabrada si è avuto tantissimi casi ed è stato gestito male. Però essendo, diciamo, nella, ancora risalente alla precedente stagione, anche se poi in realtà è passato un mese e mezzo, diciamo, e poi appunto è di Serie B, è rimasta. E ha creato grande polemica, però diciamo circoscritta a quell'episodio. Da quando è ripartita qui non abbiamo avuto grandi problemi e in generale ecco, si affronta l'argomento, come si può dire, con freddezza e comunque considerando, sì, all'interno della cornice delle norme che ci sono, no? I calciatori non sono cittadini, cioè, se i calciatori tornano ad essere cittadini normali, il calcio non si può giocare, cioè si deve fermare. Questo è indiscutibile. Se tu invece gli dai uno status, perché appunto è stato deciso così, perché è importante, perché è un'industria, tutto quello che vuoi, e viene fatto un protocollo, ci si attiene a quel protocollo. Appunto. Se tu, questo per me, e qua in Spagna è ancora così, c'è il protocollo e si rispetta il protocollo. Se sei positivo, te ne resti a casa, se sei infortunato o squalificato. Per cui per ora siamo così. E adesso vediamo, a me, ho citato prima il caso di Madrid, ecco, a me fa abbastanza, anche lì bisogna accettare, per esempio, che la settimana prossima qui deve venire lo Shakhtar e inizia le coppe, zona, dimmi una cosa, diciamo, piccola. Esatto, capito? Cioè, teoricamente è una zona rossa. È chiaro che tu ti puoi muovere da Madrid per questioni di lavoro, quindi non è che rompono completamente il protocollo. Se io diciamo devo fare una, diciamo, uscire per lavoro, lo posso fare. Però ecco, arriva una squadra dall'Ucraina e ecco, parte la Champions. Per me questo è il grande tema. Però per rispondere alla tua domanda, per il momento qua la cosa viene gestita, ecco, in maniera per me positiva e basta. Insomma, non ci sono strascichi polemici che esondano quella che è la pratica. Ma perché nel mare di nostri pregi, perché per esempio secondo me il popolo italiano in assoluto, che se ne dica, soprattutto durante il primo lockdown, ha gestito la situazione con grande senso di responsabilità, quindi abbiamo un sacco di pregi come paese, ovviamente generalizzando. Poi abbiamo questo difetto, che c'è sempre questa visione un po' paternalistica dello sport, che viene vissuto come se fosse, lo sai, che è il mio cavallo di battaglia, ma per me è realmente così. Cioè, negli altri paesi non c'è il moralismo che esiste sul mondo del calcio, il mondo dello sport in generale, come se fosse una cosa da sfigati, come se gli appassionati di sport avessero delle vite tristi, vuote. Questa roba qui, che in Italia un pochino c'è, qualche retaggio da questo punto di vista c'è, come se lo sport fosse veramente una qualcosa di cui vergognarsi, secondo me, non so che pensa Filippo. Sai però che cosa c'è qua? Io non l'ho mai visto. C'è il senso di approfittarsi delle situazioni di cui ti puoi approfittare, è questo che mi porta ad essere. Mi porta ad essere un altro aspetto. Però quello che dice Pier, probabilmente, cioè, qua, una volta che si è deciso che si fa un protocollo per permettere alla Liga di andare avanti, basta. Cioè, è chiaro che tu hai detto, ha fatto bene Piero a citare il caso Genoa, noi non l'abbiamo ancora avuto, appunto l'abbiamo avuto prima, è chiaro che magari adesso domani, insomma, una squadra X, il Betis o il Levante si presenta con 20 contagiati, può esserci un problema, però qui le regole sono chiare. Cioè, a me ha sempre fatto, mi ha scioccato la cosa, cioè, in Italia il protocollo sul calcio è stato fatto il 2 ottobre. Voglio dire, noi qua ce l'abbiamo avuto subito, cioè il protocollo, cioè, è stata definita numericamente l'incidenza che puoi avere, no? Quella dei 13, compreso portiere. È assurdo non pensarci, Carlo, però scusa, sì, cioè, certo, questo abbiamo detto più volte. Allora, chiaro, magari, cioè, non ci pensi se pensi che il coronavirus sia passato, magari. Però noi qui in Spagna era tutto chiaro, io ne ho scritto quando è partita la Liga, avevo fatto un boxino spiegando quello che sarebbe successo in caso di positività, quindi tu puoi chiedere il rinvio di una partita, ma alla seconda la perdi a tavolino, comunque non oltre la 30ª giornata e via dicendo, i 13 giocatori, cioè, ecco, a me stupisce più questo, che in Italia neanche fosse stato, non si è pensato nemmeno a questa dopo. Situazione l'abbiamo fatto dopo, cioè, andando a recepire, no? Capisci che allora dopo tutto viene travolto, andando a recepire la normativa dell'UEFA. Ragazzi, io non credo che in Spagna, Filippo, qualcuno abbia messo in contrapposizione la scuola e il calcio, ad esempio. No, da noi l'ha fatto un ministro che, fra l'altro, ribadisco, io stimo, perché secondo me sta facendo bene e mi sembra una persona. Però, capito, c'è il rischio così della generalizzazione un po' qualunquista, secondo me da noi c'è, come se, lo ripeto, come se realmente poi interrompere il campionato di calcio significasse risolvere i problemi. Lo farei io. Ma certo. Risolvere i problemi della scuola. Ma stai scherzando? Ma non siamo mica scemi, cioè voglio dire, ci piace lo sport, ma non siamo fessi al punto di dire quello, il resto non conta. Allora, devo liberare Filippo Maria Ricci, anche per ragioni tecniche, lo saluto, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ciao Phil. Ok, ciao. Ho altre cose ciao, da chiederti, tipo se si può giocare a calcetti in Spagna. Lo farò. Troppo no, io no. Sono fermo da marzo. Sei fermo da marzo? Allora, mio figlio adesso comincia nei campionati al volo, cominciano i campionati, diciamo, locali, cittadini, così per esempio, però qua giocano con la mascherina. Mio figlio si allena e gioca con la mascherina. Non il massimo della, dal punto di vista della salute. Sì, posso dire questo. Vai, con tutto l'amore per il calcetto, questa roba qui invece secondo me è una cosa di buon senso. Poi è ovvio che il problema vero riguarda tante società, non soltanto di calcetto ma anche di altri sport di contatto, di amatoriali, che veramente rischiano di andare a gamba all'aria. E lì deve esserci lo Stato, ragazzi, perché una società semiprofessionistica o comunque piccola professionistica che svolge un ruolo, che ha una funzione sociale, ha diritto di essere aiutata come hanno diritto di essere aiutati i ristoratori, gli albergatori, ci mancherebbe altro. Cioè, torniamo al discorso di prima, però onestamente l'idea in questo momento di non andare ad alitarsi 5 contro 5. Per carità, non è quello il punto. Dove fanno i tamponi continuamente. Certo, mi preoccupa molto la situazione a livello giovanile, perché i ragazzi li abbiamo tenuti ingabbiati per un sacco di tempo, e degli spazi comunque per fare sport fanno parte della vita corretta, insomma. Fabio Da Lucca al volo e poi mi fermo per la borsa. Buongiorno. Pronto? Sì, dica. Sì, sono Fabio, buongiorno. Una cosa al volo, la Gazzetta.it, il ministro Spadafora che ieri dice: dal giudice sportivo mi aspetto che decida con saggezza. E poi, senza cercare scamotage come qualche squadra di calcio ha fatto, puntini puntini. Il ministro, non è Fabio che parla con voi così alla radio. E l'altra roba che non c'entra niente, ma non credo che in America NBA pensino che i Lakers hanno vinto un anello e dicano che sia stato un campionato falsato. Grazie mille. Grazie a lei Fabio. No, però anche in America si discute su asterischi e mica asterischi, è stato un campionato strano e questo è evidente. Nessuno né da questa parte né da quella dell'oceano mette in discussione il risultato sportivo. Quanto a quella l'uscita del ministro Spadafora, io mi aspetto che tutti i giudici del mondo decidano con saggezza, mi sembra abbastanza una banalità. Se poi sottintendesse qualcosa di più malizioso non lo so. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Così finisce? Sì, così. Poi, perché poi voglio capire cosa succede nel ciclismo Giro d'Italia, eccetera. Perché ci sono 3 o 4 grane. Adesso che si è ammalato anche Cristiano Ronaldo possiamo dirlo, tutto a monte. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono molto felice per questa vittoria, sicuramente anche una vittoria speciale. Essendo prima volta a Giro d'Italia e 10ª tappa. Io dico a tutti i costi, chiaramente escludendo problemi di salute o escludendo problemi maggiori, però il giro a ottobre era una difficoltà, lo stiamo portando avanti come meglio è possibile e l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a Milano. Buongiorno a tutti, mi è venuta un'idea, magari avrebbero potuto invertire il percorso, partire dalle montagne e finire in Sicilia, visto la stagione in cui si sta affrontando questo Giro d'Italia. Saluti a tutti. riassunti così mirabilmente da Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattoni in questo montaggio tutti i vari punti interrogativi che stanno intorno a questo Giro d'Italia che ha celebrato la prima sinfonia di Sagan ieri, Sagan che non vinceva da un'era geologica per Augusto Stagi. Eh sì, non vinceva da una vita, più di un anno. Dalla tappa di Colmar al Tour de France, e devo dire che Peter è riuscito a trovare una giornata magica nel momento forse più importante di questo Giro d'Italia, perché ieri mattina siamo partiti con veramente col morale sotto i tacchi, sotto i pedali per le vicende, note vicende Covid, e quindi con tutti i tormenti riuscirà questa corsa ad arrivare ma però, a Milano, riusciremo a scalare, però, lui ci ha portato una vampata di grande allegria e di grandissimo cittadino. Sì, però mi sembra un interrogativo questo, riuscirà il Giro d'Italia ad arrivare a Milano? Non vedo perché no, in questo seguo Spadafora che ha detto, i protocolli ci sono rigorosi, seguono quelli e continuino a correre come normale che sia. Intanto per la cronaca anche Fognini positivo, deve ritirarsi dal torneo ATP 250 di Sardegna. Vabbè, questa è cronaca di questi giorni. Però ti ripeto, seguiamo i protocolli che dicono cose precise. È chiaro che vedere una squadra, delle squadre che vanno via dal giro è una roba brutta, l'unica parola che mi viene ed è banale. Però insomma si va avanti così. Certo che se in Sicilia, come ho letto, gli alberghi delle tappe siciliane evitano di mescolare i corridori con i villeggianti e con quelli che festeggiano i matrimoni, forse è meglio. Allora, andiamo per ordine, partiamo con l'ultima cosa. Chiaro, in Sicilia è stato fatto un pasticcio. Purtroppo il quartier generale, c'erano troppe squadre, 5 squadre insieme, turisti che vagavano per le Eoli, in più c'era anche la sala stampa. Va detto che a differenza del Tour de France, al Tour anche i giornalisti dovevano entrare nella bolla e quindi dovevano arrivare, per dire, io dall'Italia dovevo arrivare con un tampone eseguito, a quel punto mi davano il pass, a quel punto venivo preso in consegna dal servizio sanitario francese del Tour e ogni 4 giorni mi facevano un tampone. E a Parigi ci arrivi. Ci sono state delle cose che non hanno funzionato come doveva. Quindi per certe cose la Jumbo Visma, la squadra di Chrysler che ieri è stato trovato positivo, può anche aver ragione. Il problema è che non ha alzato voce, non ha alzato dito, non ha detto alcunché già a Palermo, perché poteva dire all'organizzatore o comunque farlo sapere in maniera chiara, così non va. Invece, come spesso capita, loro hanno provato, erano lì che potevano lottare per il Giro d'Italia con il loro corridore olandese, sono stati zitti. Nel momento in cui lo beccano, viene trovato positivo al Covid, se teniamo al Covid che è un ciclismo, le positività sono anche di altro genere, va a casa tutta la scuola. Questo non va bene, questo, come detto, è la logica del furbetto, è una logica che conosciamo bene, dai, una logica del furbetto. E va detto che è da separare con quello della Mitchelton Scott, la squadra australiana, che invece ha avuto la scorsa settimana 6 molestie positive in più, ieri mattina altri 2 corridori e altri 2 del personale. A quel punto Brett Copeland, team manager della squadra australiana, ha detto: ragazzi, siamo molto a rischio e mettiamo a rischio tutto il gruppo, quindi è bene, perché siamo così un po' conciati male, quindi avevano ben più di una ragione, ne avevano perlomeno 5 di ragioni, hanno tolto il disturbo per non infettare il gruppo, per cercare appunto decisione di non andare presa a rovinare la bolla. Certo, decisione presa da una di sua volontà, da una squadra e non dettata dalle regole in questo momento vigenti. Però la Jumbo è molto molto più brutta, perché in realtà hanno trovato solo un corridore, andava isolato il corridore, il resto della squadra poteva continuare a correre. Sì. Invece, tra l'altro, adesso dall'Olanda fanno anche le morali e ci fanno anche delle lezioni di stile, quando forse lo stile è mancato proprio a loro. Sì, da tutte e due le parti, dai, facciamo così, perché perché adesso sì, parliamo di leggerezza organizzativa, poi diciamo il giro non arriva, e bravo, se devi fare delle cose e poi non le fai o le fai male, a quel punto lamentarsi dopo vale poco. Altro punto, Pier, che mi sta molto a cuore, perché l'altro giorno io dicevo, allora Stelvio, Colle dell'Agnello, Isoard, le grandi montagne. L'ascoltatore diceva: ma non si poteva fare il contrario, cioè primi di ottobre parti dalle montagne e poi vabbè. Questa poteva essere un'idea, però ho guardato così distrattamente le previsioni per quello che possono valere a lungo termine. Il 22 sullo Stelvio le previsioni dicono meno 8, meno 2, neve. Il 24 Colle dell'Agnello 3-5 gradi con pioggia, stessa situazione sull'Isoar. L'altro giorno dicevo, vabbè, salire una salita fisicamente la puoi anche fare, sebbene in condizioni estreme, anche se ti viene in mente il Gavia, Amstein, l'88, eccetera, eccetera, con quelli morti assidati, ma appunto in discesa, che scendere con la maglietta, un ascoltatore mi dice, ma guarda che hanno inventato i Kiway, va bene, maglietta bagnata e Kiway, scendi tu dallo Stelvio. Si riesce a fare quel giro lì? È molto difficile, stando, diciamo, a oggi sì, però come tu hai già detto, le previsioni non dicono, non ci danno delle notizie confortanti, e quindi ci sono anche lì, oltre al Covid, abbiamo altri punti di domanda. Il nostro ascoltatore che ha proposto potevamo partire facendo il giro al contrario, e ho capito, ma dopo tre tappe il Giro d'Italia era praticamente certo, finito, certo, dopo era una passerella, ho capito. No, te la puoi giocare magari così a logica sulle montagne, che non sono la stessa cosa, le montagne del sud. A marzo, bisogna dirlo, a marzo, quando, perché passo un pensiero che non è, mi assumo la responsabilità, perché con gli organizzatori ho parlato più e più volte, a marzo quando io parlavo con il direttore del Giro d'Italia, dicevo, allora avete deciso, no, aspettiamo di formulare il nuovo calendario, aspettiamo dove si posizionerà il Tour de France e noi agiremo di conseguenza. Logicamente il Tour da luglio è passato a metà agosto, per primi di settembre, che era la data più buona. Certo, meglio che la collocazione normale. A ottobre, ma lo certo, sapevamo tutti, avevamo tutti i virologi del mondo che dicono a ottobre ci sarà la seconda ondata, noi cosa abbiamo scelto? Ottobre. Beh, siamo stati abbastanza bravi, possiamo dirlo che siamo stati abbastanza bravi. Credo di sì, cioè è innegabile, perché non è che ce lo inventiamo oggi, poi ci saranno anche i negazionisti che dicono non è vero, è solo un'influenza, ma non entriamo su questo piano. Il problema è che sapevamo che a ottobre sarebbe successo qualcosa e noi abbiamo scelto una data molto molto difficile. Ha detto sì, Mauro Venni, direttore del Giro d'Italia, cioè il giro ad ottobre è complicato. Ma il Giro d'Italia ad ottobre è complicato, sarebbe complicato anche senza emergenze Covid e quant'altro. Il giro a ottobre, esatto, ti ripeto, andare sullo Stelvio il 24 di ottobre in bicicletta, il 22 di ottobre in bicicletta, è una roba ai limiti dell'immaginabile. Grazie Pier, ci sentiamo molto presto. Grazie domani a Stretto Giro di Posta. Grazie per Augusto Ostaggi. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi c'è Beninazzo che ci deve dire dove vedremo la Champions League negli anni dal 2021 in poi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno ragazzi. E adesso che abbiamo Ronaldo con il Covid e l'ASL di Torino bloccherà la Juve, chi glielo dice al Barcellona che non andiamo a giocare la Champions League? Ci metteranno a ridere forse? Marco Bellinazzo, buongiorno. Eccomi, ciao Carlo, buongiorno a te. Ti voglio far sapere che ieri ti ho visto su Sky Sport e mi sono un po' ingelosito, ma comunque queste sono cose personali. Senti, dove vediamo la Champions League negli anni successivi al 2021? Beh, se la vuoi vedere di mercoledì e vuoi vedere la partita più importante, beh, dovresti avere Amazon Prime. Ok, questa è la grande novità. Questa è la grande novità dopo, diciamo, il mercato tedesco e quello inglese, anche quello italiano vedrà l'arrivo dell'over the top, che in questo momento sta facendo incetta di diritti sportivi, anche per esempio del tennis, del Roland Garros, insomma, sì, dopo aver fatto tanto negli Stati Uniti. Per quanto riguarda tutti gli altri diritti, si sono aperte le buste, la UEFA di solito poi dopo fa un altro giro di consultazioni tra chi è presentato le offerte migliori per suggerire eventuali rilanci. Da quello che mi risulta c'è un'offerta molto forte sui vari pacchetti di DAZN, alla quale chiaramente ora Sky è chiamata a rispondere, perché altrimenti potrebbe esserci uno stravolgimento rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Ma quindi la mappa è la partita di Amazon Prime sarà in esclusiva loro? Sì, la partita diciamo più di cartello del mercoledì. Del mercoledì, esattamente, mentre la partita più importante del martedì, per la quale c'era stata un'offerta di Mediaset, in realtà non è stata assegnata, perché probabilmente le offerte diciamo di Sky e DAZN sono vincolate al fatto di avere comunque la scelta di quella partita nel loro bouquet. Quindi non ci sarà più l'operatore in chiaro, a meno che poi Sky, se dovesse prendere i diritti, non decide di trasmettere in chiaro una partita. Esattamente, perché diciamo i diritti TV UEFA non hanno il divieto di sublicenza come quelli della Serie A. Eventualmente si potrà trovare un accordo per dire con Rai o Mediaset da parte di chi acquisirà quel tipo di diritto. La stessa Amazon diciamo magari potrebbe avere interesse ad avere altri tipi di partite e trovare un accordo con le altre parti, quindi diciamo potrebbe poi riaprirsi vari operatori, insomma. Sì, quindi potrebbe banalmente cedere il diritto di una partita Rai Mediaset, come è già successo in anni passati. Nel complesso però avremo due operatori, giusto? Sì, al momento diciamo questo si sta profilando, ripeto, a meno che non ci siano accordi post asta. La novità appunto è di Amazon, ma anche di DAZN, che ha rilanciato forte e che potrebbe poi, acquisendo magari questi diritti, sedersi al tavolo con Sky più forte di prima, laddove l'eventuale poi asta che ci sarà, quella della Serie A, non dia lo stesso esito della precedente. Quindi è ancora tutto in gioco. L'importante insomma per i consumatori finali, che da questo innesco di vari operatori poi vengano fuori prezzi, come dire, più bassi magari rispetto certo, al passato. Certo, che è quello che tutti auspichiamo. Senti, un altro tema: ingresso dei fondi nel capitale della Lega Calcio. Anche qui ti faccio la domanda da uomo della strada: come cambierà e quanto cambierà la vita quotidiana del Consiglio di Lega? Su questo si dovrà ancora discutere, perché nelle quattro settimane che verranno, in cui c'è la trattativa esclusiva, c'è proprio il tema di capire quale sarà la governance. Chiaramente i fondi mettono 1,6 miliardi, hanno il 10% del capitale, ma vogliono comandare nella gestione commerciale, nella vendita, e mi sembra diciamo che è giusto ovviamente dal loro punto di vista. Non tutti i presidenti, anche quelli che hanno votato a favore di questa soluzione, diciamo, sono d'accordo nel cedere tutto il potere chiaramente alla cordata di fondi, o comunque a dare a loro la possibilità di prendere le decisioni più importanti, insomma con un ruolo specifico diverso, e di conseguenza diciamo questa è una partita ancora aperta. Credo che l'interesse di tutti sia quello di avere insomma dei manager che possano decidere, possano approvare delle innovazioni ed uscire fuori dalle beghe, dalla palude del passami il termine ad ogni costo che c'è nell'assemblea invece della Lega Calcio, e quello che ha contrassegnato un po' tutti questi anni purtroppo, in cui passare da una gestione da assemblea di condominio, da mercato non del calcio ma rionale, ad una gestione più manageriale. Quindi questo che dico a proposito di vita quotidiana della Lega Calcio. Sì, la vita quotidiana diciamo è che i presidenti continueranno a litigare sulla parte sportiva, calendari, su altro, mentre la parte manageriale diciamo legata alla vendita dei diritti TV e alla come valorizzare il brand, quali iniziative assumere, dovrebbero essere appunto appannaggio invece di manager. Sai che dico, io ci sto, se è così io ci sto. Beh, questo è l'obiettivo, questo è un po' il modello. Io insomma c'è da dire che non credo che il fondo in quanto tale sia la panacea di tutto. C'è 1,6 miliardi che dovrebbe servire per investimenti, gran parte del quale invece finirà a coprire la mancanza di liquidità che purtroppo i nostri club stanno attraversando, e quindi spero insomma che non verrà tutto assorbito nelle spese correnti e che ci sia effettivamente poi spazio per fare degli investimenti che sono fondamentali per poter dare lustro alla nostra Serie A. L'obiettivo è quello di andare a correre con quelli che sono davanti a noi, insomma, con che corrono più corrono velocemente. Quelli che corrono forte ormai da anni. Marco, grazie per il momento. Grazie, ci risentiamo presto. Anche perché questa partita dei diritti televisivi della Champions è ancora, come avete sentito, da chiudersi. Noi chiudiamo invece il programma ringraziando Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Tutti convocati domani alle 2. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.